Italia in controluce. Una buona giornata da Alessio Maurizio, ben ritrovati all'appuntamento su Radio 24 con le storie grandi e piccole della cronaca che ci parlano dell'Italia in controluce. Ogni giorno da Lampedusa arrivano storie di arrivi, di sbarchi e di partenze verso altre destinazioni, ma per i nuovi arrivati non ci sarà nessuna possibilità di avere un permesso di soggiorno, se non per i rifugiati. Ma chi sono, quanti sono e dove sono diretti in Europa i rifugiati? E l'Italia come si comporta con loro? Paolo Piacenza ne ha parlato con Bernardino Guarino, presidente della Fondazione Astalli, servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia. Il primo punto è il calo delle domande di asilo proprio nel nostro paese. 2010 è stato veramente un anno nero da questo punto di vista, nel senso che siamo arrivati a 10.000 domande a fronte delle 30.000 di due anni precedenti, per cui c'è stato un calo intorno al 40% in due anni. Quindi anche nei ragionamenti sull'emergenza che si sono fatti quest'anno non si è però abbastanza sottolineato che in effetti si partiva da un numero molto molto basso e certamente non in linea anche con gli altri paesi europei. Ecco, qual è la situazione degli altri paesi europei? Ma guardi, da quando c'è l'Europa e le direttive europee purtroppo c'è stato, diciamo, una omologazione verso il basso, per cui anche i paesi che avevano una grandissima tradizione come la Germania, la Svezia, in genere i paesi del nord Europa, hanno abbassato molto, diciamo, gli standard e quindi anche le domande si sono ridotte, però certamente non arrivano ai numeri italiani. La Francia per esempio ha avuto l'anno scorso 40.000 domande, l'Italia 10.050, per cui diciamo ancora una percentuale molto bassa. A fronte di questo però non migliorano le condizioni sull'accoglienza. In Italia esiste un buon programma, che è quello promosso in collaborazione con l'ANCE e i comuni italiani, che è lo SPRAR, il sistema di protezione per gli richiedenti asilo e rifugiati. Il programma nazionale promosso dal Ministero e affidato all'ANCE, che è l'ente attuatore e l'ente gestore, e loro fanno dei bandi aperti ai comuni che sono disponibili appunto a questa accoglienza. E con questo sistema sono accolte, ci sono 3.000 posti. Tutti dicono che è un buon programma, che è una buona pratica, ma che i posti sono insufficienti. E quindi quando poi ci sono le emergenze, paradossalmente, anziché andare a potenziare questo strumento, che è l'unico che poi permette una reale integrazione, perché le persone si integrano molto meglio nei piccoli centri che nelle grandi città, si fanno invece programmi emergenziali che costano il triplo e che poi alla fine non ottengono risultati, perché accogliere in emergenza una persona, cioè garantirgli la sopravvivenza, non vuol dire poi integrare quella persona. Però questo è uno un po' dei paradossi con cui noi gestiamo il tema dell'immigrazione, che riusciamo a vivere solo come un'emergenza, mentre invece è una realtà strutturale che va solo pensata e governata. Ecco, il meccanismo dei permessi temporanei adottato per fronteggiare l'emergenza sbarchi, quale giudizione date voi? Ma guardi, ripeto, sempre considerando il fatto che parliamo non di numeri eccezionali, perché ormai da quello che noi sappiamo i tunisini che sono rimasti in Italia sono più o meno la metà di quelli che sono arrivati, per cui saremo intorno alle 10.000 persone. È evidente che una volta arrivate queste persone era, diciamo, impossibile rimandarle indietro, a meno che non ci fosse una chiara volontà della Tunisia, però insomma era un'emergenza umanitaria, in fondo conseguenza di un rivolgimento in quello Stato, per cui certamente bene ha fatto quel governo a concedere questi permessi. Magari se lo si faceva prima e non si gridava troppo all'emergenza e all'esodo biblico, avremmo forse allarmato meno la popolazione e quindi trovato immediatamente più solidarietà. Italia in controluce. E come ogni lunedì è il momento di parlare di scuola con Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Bianchi, rossi, gialli, neri, siamo i colori dei quartieri. Mille mani e un giro tondo, siamo i bambini di tutto il mondo. Siamo a Milano, a due passi dalla sede di Radio 24. Un tram divide due mondi. Da un lato le villette di San Siro, circondate da cancelli e giardini. Dall'altro un enorme blocco di case popolari, scrostate, con i bambini che giocano rumorosi nei cortili. In mezzo una scuola primaria, la scuola di Via Paravia. Il 95% di alunni stranieri e nei propri locali anche la scuola araba, nata sulle ceneri della scuola di Via 40, che fece infuriare qualche anno fa leghisti e non solo. Bambini nordafricani, cinesi, sudamericani, anni. Di italiani alla scuola Paravia se ne sono visti sempre meno negli anni. Quest'anno l'iscrizione di 17 bambini, 15 stranieri. Il provveditorato ha detto no. Una classe di soli stranieri non si può fare. I piccoli alunni vengano smistati in altre scuole. In Paravia dunque quest'anno niente prima. Una scuola questa destinata ad una lenta morte. Anita Labò insegna alla scuola Paravia da tantissimi anni. Siamo disperati, nel senso abbiamo accolto questa cosa con enorme rammarico, perché lavoriamo in questi 20 anni, noi abbiamo visto trasformarsi il quartiere, perché ormai il quartiere è diventato a predominanza straniera e noi siamo la scuola di un quartiere che ha predominanza straniera, ed è un problema che poi si sposterà sulle altre scuole man mano. Qual è a questo punto il destino di questa scuola? Una scuola peraltro che ha una funzione sociale importante, ecco, in questo quartiere. Essenziale, vorrei dire, nel quartiere essenziale, perché noi facciamo appunto educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, c'è la scuola delle mamme, noi nell'accoglienza siamo iperspecializzati, noi accogliamo i bambini, accogliamo le loro famiglie, abbiamo 50.000 progetti per i bambini a vari livelli, dal bambino che non parla, c'è il facilitatore, ci sono progetti passo dopo passo per aiutare questo bambino nei primi 15 giorni a entrare in sintonia con la scuola. Cioè abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo per omologare queste persone straniere ai cittadini italiani. E invece il risultato è che i cittadini italiani se ne sono andati, e anche quelli stranieri a questo punto. Noi siamo la scuola degli stranieri, poi la scuola araba nell'altra ala della scuola non ci ha aiutato per niente, perché comunque se già la gente non veniva normalmente nella scuola dove c'erano tanti stranieri, meno ancora verrà in una scuola che condivide gli spazi con la scuola araba. Lei si sente sconfitta? Sì, io francamente sì, perché ho speso tutte le mie energie in questa scuola. Sente di aver perso una battaglia? Ci proviamo ancora, però cioè noi siamo piccoli a confronto di tutto quello che sta succedendo in Italia. È tutto anche per questa puntata, ci risentiamo oggi alle 13.30, nel frattempo scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.